tra le spese. Musetta insegna il canto ai passeggeri. Io pingo a quei guerrieri sulla facciata. E presto entrate. Thank you. separarmi, dammi via, sei volubi così. L'altra volta credetti morto e mio cuore, ma di quegli occhi a noi abbia me farà dei patti e l'amore fetta e lacrima e di fila e non ride la vita l'amore mi afferrà tu sei geloso poco collerica lunatico imbevuto di pregiudizi noioso e con Dio parlerai. Che dicevi? Ascolta quel signore! vipera, strega!